Appello. Ademo Elisabetta. Presente. Bozzini Emanuela. Presente. Calderon Clelia e Leo. Presente. De Angelis Marco. Presente. Obbligo di frequenza. Di Maria Piera Ceci. Partiamo oggi con una buona notizia che arriva da Bari. Abbiamo parlato diverse volte dell'università pugliese, l'università potremmo dire di Parentopoli, figli e nipoti che lavorano nell'Ateneo in barba ad ogni codice etico. Ma qualche giorno fa c'è stato un episodio mai avvenuto prima e che fa ben sperare per il futuro. È stata bocciata la candidatura della figlia di un barone su proposta di Giovanni Lapadula, ordinario di reumatologia all'università di Bari. Sentiamolo. Bari, come sa, è stata purtroppo additata dai media l'ateneo del nepotismo. Per questo motivo si era deciso di creare un codice etico. Poi però si fa fatica a metterle in pratica queste regole, evidentemente. Sì, perché è accaduto che un concorso bandito qualche anno fa per il professore associato di otorinolaringoiatria abbiano partecipato vari candidati, fra cui un candidato di Brescia e una candidata che era figlia dell'attuale ordinario di otorinolaringoiatria. Siccome i termini erano quasi del tutto esauriti, c'è stata una convocazione d'urgenza di facoltà e si è tentato anche un po' di forzare la scelta verso la figlia del professore ordinario. In che modo? Il vice direttore del Dipartimento di Otorinolaringoiatria, che è abbinato all'oculistica, si è alzato dicendo che il Dipartimento si era espresso positivamente per la chiamata della professoressa Fiorella, quindi ha dato nome e cognome. In barba al codice etico che vi eravate dato, però. Non solo, ma in barba anche alle norme di legge che prevedono che si scelga fra i due candidati e che non si debba procedere ad una chiamata per acclamazione di uno di questi. Cioè, e di fronte a queste osservazioni? Di fronte a questa osservazione io ho fatto notare irregolarità del comportamento, ho dichiarato il mio voto contrario, ho dichiarato che io avrei scelto obbligatoriamente l'altro candidato perché la candidatura della figlia del professore era improponibile sulla base del codice etico e ho chiesto e ottenuto che la votazione fosse a scrutinio segreto per evitare delle evidenti possibilità che gli ordinari hanno di influenzare il voto dei professori associati che erano chiamati a votare, perché i professori associati sono sempre un po' sotto scacco perché potrebbero essere vittime di intimidazioni in qualche modo. Sì, perché loro devono far carriera, devono fare un concorso e sono giudicati. Non si possono fare nemici. Non si possono fare nemici. Il risultato della votazione è stato 43 voti per la candidata della professoressa Fiorella, si chiama, 33 schede bianche, 6 schede annullate e 23 voti all'altro candidato. E quindi la seduta si è chiusa senza che nessuno sia stato chiamato. Però è stata ripristinata la legalità, è stata ripristinata la legalità, questa è una possibilità prevista dalla legge. Insomma, una bella vittoria, una bella soddisfazione per lei, no? Ma guardi, io non l'ho fatto in quest'ottica, è che proprio non, pensandosi nei giorni precedenti, avevo detto anche a qualche amico che io non avrei potuto tacere. Non è possibile pensare di trovare degli escamotage di qualunque tipo per violare delle norme condivise. Sì, no, perché le norme spesso si fanno, le leggi si fanno, però poi si trova sempre il modo per aggirarle, no? Nel silenzio totale. Poi, invece questa volta, per fortuna, non è andata così. È un primo passo verso un ateneo un po' più pulito, insomma, no? Io ci spero. Speriamo che questo serva a svegliare qualcuno, anche perché una nota un po' malinconica è che quando io sono intervenuto, dopo di me non è intervenuto nessuno. Nessuno ha avuto il coraggio di appoggiarla apertamente? No, hanno votato nel silenzio, nel chiuso dell'urna, hanno votato secondo me correttamente, ma nessuno ha avuto il coraggio di prendere la parola. E qualcuno che l'ha guardata storta? Qualcuno c'è stato. La Fondazione Agnelli la conosciamo già da un po', l'abbiamo spesso ospite a questa trasmissione perché sono sempre molto interessanti le ricerche che fa. Questa volta si è concentrata sui divari che ci sono nella nostra società e come specchio nella nostra scuola. I divari sono diversi, per esempio quello di genere. Se i maschietti sono sempre stati più bravi delle femmine a scuola, si registra ora una controtendenza. Le femmine hanno risultati migliori, anche se non ancora nelle materie scientifiche. Le buone notizie però si fermano qua. I due divari più impressionanti riguardano infatti il territorio di provenienza e l'estrazione sociale della famiglia di provenienza. Insomma, la scuola non funziona più come ascensore sociale come invece dovrebbe. Sentiamo il direttore della Fondazione Agnelli, Andrea Gavosto. La scelta degli indirizzi alle scuole superiori dipende moltissimo dal background, dal retroterra economico, ma anche molto culturale della famiglia di provenienza. Quindi di fatto a 14 anni sostanzialmente i figli di famiglie abbienti o di cultura elevata vanno verso i licei per poi proseguire per l'università. All'estremo opposto abbiamo i ragazzi con un background più umile, ad esempio gli immigrati oppure con problemi, insomma situazioni più difficili, che si concentrano negli istituti professionali. La sensazione è che il ruolo, diciamo, di ascensore sociale della scuola sia andato addirittura diminuendo negli ultimi anni. Tra l'altro si fa molto parlare di meritocrazia, giustamente, in questo paese, però teniamo conto che se la performance scolastica, l'andamento scolastico dipende, come noi dimostriamo statisticamente, in misura fortissima dal retroterra economico, sociale o culturale della famiglia di provenienza, a quel punto anche, come dire, premiare i voti migliori significa in molti casi in realtà premiare chi viene da un background più vantaggioso, più favorevole, quindi in realtà si va contro la meritocrazia. Infine il divario territoriale, che è la cosa più strabiliante in senso negativo che abbiamo scoperto. Tenga conto che oggi un ragazzo che vive al sud e quindi va a scuola al sud mantiene un ritardo, noi esaminiamo in particolare i risultati di PISA, l'indagine dell'OCSE per il 2006 nelle scienze, mantiene un ritardo di 68 punti rispetto al ragazzo equivalente del nord. Questo significa, tradotto in termini di tempo, che è un anno e mezzo di scuola in ritardo, per il solo fatto di essere nato, verosimilmente, comunque di andare a scuola al sud. Capisce? Quindi il diritto allo studio non è uguale per tutti i ragazzi? No, è un'ingiustizia, diciamo le cose come stanno, è un'ingiustizia, cioè perché un ragazzo che nasce al sud deve avere un risultato scolastico così peggiore, quindi diciamo acquisire meno competenze, quindi condizionare ovviamente la sua vita futura, il suo lavoro futuro, eccetera, di un ragazzo del nord. Alla presentazione del rapporto della Fondazione Agnelli anche il ministro della Pubblica Istruzione Gelmini, che ha promesso l'impegno del governo per superare i vari divari di cui abbiamo parlato. Credo che il progetto che noi abbiamo davanti mira proprio al superamento dei divari territoriali, sociali, punta a fare in modo che la scuola torni ad essere un elemento che favorisce la mobilità sociale. Però per fare questo il Parlamento, perché è chiaro che non si possono superare queste difficoltà e approvare questi progetti con il solo apporto del governo, sarebbe al contrario sbagliato. Serve una forte discussione parlamentare, un'assunzione di responsabilità e per quanto riguarda il tema della valutazione ho voluto costituire accanto ad una commissione interna che vede la presenza di dirigenti, di esperti del Ministero in continuo dialogo con un'agenzia terza e imparziale come l'Invalsi, ho voluto anche avvalermi di una commissione di consultazione su questo tema, perché le riforme rappresentano sicuramente un punto decisivo, ma un tema delicato come la scuola ha bisogno anche di una preparazione di tipo culturale, di una corretta informazione. Ve lo ricordate, ne abbiamo parlato anche in questa trasmissione, del tetto del 30% di alunni stranieri in classe. A Milano è partito ora il primo ricorso contro la norma. A presentarlo due mamme, una romena e una egiziana, contro sostengono una norma discriminatoria che introduce modalità diverse di iscrizione in base alla cittadinanza. Ad assisterle l'avvocato Alberto Guariso. Tempo di iscrizioni proprio in questi giorni nelle scuole, come lei ben saprà. Questo ricorso nasce da un fatto concreto, c'è stato qualche richiesta che è stata respinta, che voi sappiate, o stiamo lavorando sulla teoria? Abbiamo avuto segnalazioni che poi a seguito che certamente ci sono state, perché magari anche senza cattiva volontà, giustamente i dirigenti scolastici o anche gli operatori della scuola sono in difficoltà, perché nel momento in cui si vedono arrivare domande di iscrizione oltre il 30%, qualcuno abbiamo avuto segnalazioni, ha pensato bene di dire: noi in questa scuola non possiamo iscrivervi. Poi ovviamente queste cose sono rientrate, nel senso che entro la scadenza del 26 febbraio, che è la scadenza per l'iscrizione alla scuola elementare, comunque tutti devono essere iscritti con riserva, poi il Consiglio d'Istituto deve stabilire i criteri in caso di eccedenza e lì si porrà il vero problema. Per adesso anche questi casi, per quel che ci risulta, a seguito però solo di interventi di pressione e di chiarimenti, sono stati gestiti a livello locale, a livello di istituto, sono stati risolti, ma comunque resta il fatto che, ripeto, siamo in presenza di una prescrizione non solo ambigua, ma addirittura chiara in senso contrario a quanto dovrebbe accadere da parte dell'ufficio scolastico regionale. Siamo andati in giudizio, come dire, anche preventivamente. È tutto, se volete risentire questa puntata potete andare su radio24.it. Noi ci risentiamo sabato prossimo, come sempre alle 12.45.